Trascorsero mesi di lavoro e di pace. Il mio ventre cresceva. Io aiutavo Emone in tutti i lavori. Pulimmo la vigna che divenne un giardino. Assistetti a molti parti. Vidi nascere agnelli, capretti e maialini. Partecipai alla mietitura, alla trebbiatura, con il povero asino che ormai non ce la faceva più. Per la prima volta nella mia vita sentivo che quello che facevo serviva veramente a qualcosa. Nella spiga di grano c'era anche un po' del mio lavoro. Gea era meno misteriosa. Certo, continuava a racchiudere i suoi segreti, ma il fine era chiarissimo. Tutto serviva agli esseri viventi che l'abitavano. Bastava trovare l'armonia con Madre Natura e tutto poteva essere risolto. Forse potevano essere estirpate dalla mente dell'uomo persino le guerre. Lasciammo Colle Lupo e Unai solamente per 2 giorni, alla fine dell'estate, per recarci alla fiera di Cleone. Emone e io dovevamo vendere alcune capre e pecore, un po' di formaggio e di vino per poter comprare un asino giovane. Il nostro ormai non poteva lavorare più, era troppo vecchio e quello sarebbe stato il suo ultimo viaggio. Povero animale, oltre a 2 orci di vino, dovete portare anche me, incinta di oltre 5 mesi. Emone mi aveva obbligato a cavalcarlo. Lui mi precedeva a piedi, guidando, con fischi deboli e stanchi, aiutandosi con una lunga asta di legno, le pecore e le capre. Mentre scendevamo da Colle Lupo, si vedeva la vallata di Fliunte, l'Acropoli, il tempio di Zeus, la mia città fatta di case bianche, il fiume Asopo che lambiva l'Acropoli e il tempio di Asclepio. Tutta quella luce, tutto quel verde, quella splendida natura, non riuscivano però a placare l'inquietudine che mi assaliva. Avevo paura di incontrare Paionio. Anche se aveva già abbandonato l'attività agonistica, continuava a lavorare nell'atletica. Adesso faceva l'allenatore nel lancio del giavellotto a Fliunte. Raggiungemmo la strada che portava allo stadio di Nemea, dove si allenavano gli atleti. Mentre ci accingevamo a prendere la via per Cleone, avvistai dei cavalieri al galoppo. Uno di loro si accorse di noi, lasciò il gruppo, cavalcò nella nostra direzione. Era Paionio, sudato, una specie di ghigno sul volto abbronzato. Gettò un'occhiata indagatrice al mio ventre. Mi chiese quando sarebbe nato. Glielo dissi, evitando il suo sguardo. Come mai non ti sei fatta ricrescere i capelli? La sua voce mi intimava di fissare i suoi occhi penetranti. Perché pensavo che ti avrebbe fatto piacere, visto che questa è l'usanza delle ragazze spartane. Poi aggiunsi, senza che la mia voce tremasse, e per non dimenticare. Il suo sguardo da minaccioso divenne sprezzante. Benissimo così, allora. Cerca di non dimenticare mai qual è il tuo ruolo, il tuo destino. Un colpo di piede al cavallo e si allontanò verso il gruppo che lo stava attendendo. Tremavo. Emone mi aiutò a scendere dall'asino. Riprendemmo il cammino. Assiotea, il modo in cui ti sei rivolta a tuo marito sembrava il morso di un serpente. Non lo fare mai più, ti ucciderà. Non lo farà. Almeno fino a quando questo ventre non avrà finito il suo ciclo. E avevo timore persino a sfiorarlo con le mani, il mio ventre. Da qualche giorno aveva cominciato a sentire dei colpi. Si muoveva, scalciava, sentiva che non lo volevo. Emone si accampò con gli animali nel prato dove il giorno dopo avrebbe avuto luogo la fiera, assieme a tanta altra gente venuta dalle montagne e dalle valli circostanti. Io mi sistemai accanto al tempio di Eracle con i formaggi e gli orci di vino. Mi avvolsi nel mio mantello di lana, evitai di sistemarmi nell'encomé Therion. Non ci tenevo a occupare un posto del portico affollato, non mi interessava attendere nel sonno le rivelazioni del Dio. Cercavo, senza riuscirci, di non pensare al mio futuro. Il coraggio di andare fino in fondo, la forza che sentivo nel mio sangue e che ogni calcio di quell'intruso mi ricordava. Quella forza sarebbe continuata anche dopo la sua nascita. In fondo, lui non l'aveva chiesta la vita. Lui era una vittima innocente come me e forse era quello che voleva dirmi con quei calci. Il prato davanti al tempio prese a brulicare di gente fino dall'alba. Emone mi portò una ciotola di latte fresco con un pezzo di pane appena sfornato, ma dovette quasi obbligarmi a mangiare. Non avevo fame. L'incontro con Paionio mi aveva sconvolta. Emone cercò di rincuorarmi, mi stimolò a vendere il formaggio e il vino, così lui avrebbe potuto dedicarsi solo alla vendita delle bestie. Ci sbrigavamo, forse ce l'avremmo fatta a tornare a Colle Lupo per la sera. Con quella prospettiva mi detti molto da fare. In poco tempo riuscii a vendere tutto il formaggio. Restavano soli 2 orci di vino, ma ero già soddisfatta per le dracme ricavate. Me ne stavo seduta sul primo gradino del tempio, in mezzo al clamore della fiera. Quando quando tra la gente si fece largo un gruppo di cavalieri alla cui testa c'era un uomo giovane dai lunghi capelli biondi. Scese dal cavallo e si diresse nella mia direzione. Arcieri armati fino ai denti erano in quattro, lo seguivano a ogni passo. Aveva la fronte ampia, il volto quadrato, la barba ispida, sfavillanti occhi verdi, un fisico agile d'atleta. Si avvicinò a me. «Sei tu che vendi vino di Fliunte?» Mi sorrise, lasciando schiuse due labbra delicate, con un'espressione sul volto di tale educazione che rimasi sconcertata. Dovette ripetermi la domanda. «Sì, questo vino è di Fliunte, di Colle Lupo!» E mi alzai in piedi, protendendo il braccio e indicandogli la cima della montagna lontana. «Vedi quel picco? Ecco, sotto c'è un altopiano. Il vino che si ricava da quell'uva è il più buono di tutta la valle.» Ma lui non aveva seguito la mia indicazione. Era rimasto a fissarmi incantato. Eppure in quello sguardo non c'era niente d'offensivo di volgare. «Ne sono certo. Non credo che tu saresti capace di mentire.» E si legge negli occhi. Si accorse del mio ventre. «Torna a sedere, per favore. Posso conoscere il tuo nome?» Non vuoi sapere quanto ti verranno a costare i due orci di vino? Forse sono troppe 30 dracme? Ma per tutti e due, non uno soltanto. E vedendo che lui non mutava espressione, aggiunsi: Ma è vino puro, non c'è acqua dentro. È molto buono e forte. Potrai lietare il più fastoso dei simposi, credimi. Lo comprerò senza provarlo e non lo offrirò a nessuno, lo berrò io da solo, un dito al giorno, per ricordarmi di questo tempio, di questo sole. Mi fissava con una tale luce sul volto e negli occhi che mi sentivo felice e imbarazzata allo stesso tempo. Mi chiamo Assiotea, sono di Fliunte, figlia di Piramo e di Antinoe. Sei sposata, Assiotea? Si accomodò sul gradino accanto a me e rivolse lo sguardo ai quattro arcieri che ascoltavano la nostra conversazione. Ordinò loro di andare ad abbeverare i cavalli, vide i loro sguardi incerti, ma lui li fulminò con un'occhiata decisa. Solo quando si furono allontanati, tornò a fissarmi. Mia madre è morta l'anno scorso. Mio padre mi ha data in sposa a Paionio, campione di giavellotto, e ora sto aspettando un bambino da lui. Lo fissavo incuriosita e grata. Grata perché lui era gentile. Non sei felice per come sono andate le tue cose, Siotea? No, non sono felice, ma grazie per il tuo interessamento. Colpi violenti dalla pancia, misi le mie mani sul ventre, quasi timorosa che potessero sentirsi. E tu come ti chiami? Non sei dell'Argolide. Gli uomini liberi di Fliunte e di Cleone non trattano così una della razza maledetta, una della tribù delle donne. Prese a scuotere il bel capo, un'espressione di sorpresa sul volto. Sono Iperide di Atene, del Demo del Collito. Ma in tutta la mia vita non ho mai pensato che una donna fosse maledetta per nascita, credimi. E protese una mano, sfiorando le mie dita intrecciate sul ventre. Purtroppo hai ragione, e questo modo di pensare e di agire non appartiene solo a Fliunte o a Cleone, ma a tutta l'Ellade, alla Macedonia, alla Persia, all'Esperia, forse al mondo intero. Cosa ti ha portato qui, Iperide? Volevo cambiare discorso, non capivo cosa stesse accadendo. Le sue dita avevano sfiorato le mie, procurandomi una frustata di dolcezza. Due sogni, Assiotea. Sono venuto come ambasciatore presso il governo della tua città, quello di Arco, di Cleone, di Corinto e di Sicione. Sono un oratore, un uomo politico. Sto cercando di convincere i governanti e i popoli di queste terre a farla finita con la vergogna della schiavitù. Ma mi faccio un po' schifo, Assiotea, perché ho paura di saper soltanto parlare bene come tutti i maledetti filosofi che mi hanno indottrinato. Perché mio padre è uno dei 10 ricconi di Atene che hanno in concessione le miniere di Laurio, dove ci sono 20.000 schiavi a crepare nelle viscere della terra. E con i soldi che ricavo, me ne vado in giro nei posti più rinomati dell'Ellade a comprare vino pregiato. Atteggiò le labbra e il viso a un'espressione di amarezza. Quando ho visto te poco fa, nei tuoi occhi ho letto il dolore di tutte le donne, la purezza che nessun uomo può sporcare. Iperide, non straziare così il tuo animo, almeno tu lo capisci, sei un uomo influente, forse potrai fare qualcosa per questo mondo ingiusto. Pensa che oggi tu stai offrendo una ventata di speranza a una ragazza di Filiunte, che fino a poco fa pensava che nella cerchia degli uomini ricchi e potenti ci fossero solo squallore, violenza e follia. Questa volta fui io a protendere la mano, a sferrare il suo braccio. Grazie, Iperide, per aver acquistato il mio vino, così posso partire presto e stasera essere di nuovo a Colle Lupo. Il suo sguardo volò assieme al mio verso la montagna lontana. E lì mi aspetta Unai, un pastorello schiavo che nella vita ha subito solo violenze e che ora mi ha scelto come mamma. E io gli sto insegnando a scrivere. Iperide m'afferrò le spalle, occhi fiammeggianti. Sai leggere e scrivere? Ti prego, raccontami la tua vita. Questo nostro incontro non è casuale, Assiotea. Io non credo a certe cose, eppure. E sentivo le sue dita conficcarsi dolcemente nelle mie spalle. Questa scena l'ho sognata qualche anno fa. Eri tu, i tuoi occhi verdi come i miei, il tuo volto, tu seduta sul primo gradino d'un tempio, tu che aspettavi per parlare con me nel sogno e mi chiedevi cosa avevo fatto io per gli schiavi. E io ti confessavo che non ero riuscito a combinare niente. E allora tu non sentivi più la mia voce e ti allontanavi e svanivi. E da quella notte, quando ho potuto, ho cercato di fare sempre qualcosa. Poche settimane fa, prima di partire, sono riuscito a convincere mio padre e tutti gli altri proprietari della concessione delle miniere dell'Aurio a inviare un piccolo esercito di flautiste nelle miniere per alleviare la condizione di quei poveracci nelle viscere della terra. Sorridi, Assiotea. Hai ragione. È un palliativo stupido, lo so, ma altre cose non me le avrebbero concesse. Però, appena realizzato questo primo minimo risultato, ti ho incontrata e quando ho visto il tempio di Eracle da lontano, ho capito che era qui che ti avevo raggiunta nel mondo dei sogni e ora ti ho incontrata nel mondo del sole. Scuoteva il capo, stava commuovendo anche me perché aveva dipinta negli occhi la mia stessa incapacità, la falsità. Non sapevo che fare. Presi a raccontargli un po' della mia vita. Una copista, la figlia di Piramo. Forse ho conosciuto tuo padre da Ofione alla bottega dei papiri della Gora di Atene. Oh Zeus! E forse ho anche letto qualche libro da te copiato. Continuava a scuotere il capo felice. Assiotea, io sono ateo, non credo agli dèi, ma c'è un mondo che noi non conosciamo. Io t'ho incontrata già. Ti prego, entriamo nel tempio davanti alla statua di Eracle senza sacrificare nessun animale. Vieni con me. Era un tempio maestoso. Dal pronao filtrava un sole bianco che entrava nella cella colpendo il volto di Eracle nello sforzo sovrumano di vincere la più dura delle sue fatiche. Il mito narra che proprio qui, dove sorge il tempio, Eracle riuscì a sconfiggere il leone. La voce di Iperide tremava. Mi strinse la mano, si inginocchiò. La luce ora inondava il volto del dio che non sembrava soffrire più. Le labbra del giovane ateniese cercavano i miei occhi e li baciarono con una dolcezza che non credevo possibile in un uomo. Mi lasciavo trasportare dalla sua emozione, pur senza capire, ma percepivo che qualcosa di estremamente importante stava accadendo nella vita di questo giovane uomo. Assiotea, dea dallo sguardo giusto, questo vuol dire il tuo nome. Chiamo come testimone Eracle, che dedicherò la mia vita a tentare di sciogliere le catene di tutte le forze di schiavitù che l'uomo ha creato, e sfiorò ancora i miei occhi con una bocca che bruciava. Assiotea, mi aiuterai? Iperide, anche se non sono molto brava a sognare, ti prometto che farò di tutto per aiutarti. Stavamo inginocchiati, le sue labbra sfioravano appena le mie, fu un alito di vento. La sua commozione mi contagiava e la mia gioia era che lui, Iperide, era un uomo e che proprio un uomo stava cominciando a infrangere con quegli occhi ardenti di tragica intensità lo steccato che mio padre e Paionio avevano eretto. Dalla penombra dell'opistodomo apparve un vecchio sacerdote. Chiese a Iperide se voleva il responso di Eracle. L'offerta era libera. Restando inginocchiato, il giovane ateniese cavò dalla borsa che portava a tracolla alcune dracme d'argento e gliele porse. Il vecchio fece sparire le monete infilandole in una borsa dorata, stretta come un foglio di papiro. Poi, alla base della statua del semidio, Eracle scoprì una scatola di legno. La avvicinò a noi, ne sollevò la parte superiore, La ruotò ricavandone due parti. Quella inferiore era una tabella intarsiata nel legno, un insieme di numeri, lettere e simboli. Quella superiore mostrava il disegno del dio mentre uccideva il leone. Il vecchio sacerdote porse a Iperide quattro astragali. Il giovane uomo li fissò intensamente, poi mi gettò uno sguardo incantato mentre mischiava gli ossicini nelle sue mani chiuse a coppa e li lanciò sul lato superiore della cassetta. Gli astragali caddero spargendosi sulla figura dipinta nel legno, uno sulla bocca del semidio, gli altri tre sul leone. Ginocchiò accanto a noi, guardò con attenzione, con un dito seguì alcuni segni sulla tavoletta inferiore e alla fine, sollevando lo sguardo sulla statua del semidio, con voce sepolcrale pronunciò il responso divinatore. Iperide, un giorno molto lontano, tornerai in questo tempio per offrire a Eracle la tua vita, affinché i leoni smettano di azzannare le pecore. Mentre Emone tirava il giovane asino che scalpitava facendosi largo in mezzo alla gente, ogni tanto mi giravo e salutavo Iperide, rimasto in piedi, poggiato a una colonna del tempio. Prima di abbracciarmi, prima dell'addio, con voce emozionata mi aveva detto: «Mi sento come Eracle quando preparò la pira funeraria e vi si sdraiò sopra, ma Zeus lo salvò dal fuoco e lo portò sull'Olimpo in una nuvola, e in quella nube incontrò e sposò Ebe, la dea della giovinezza». Credo che Ebe abbia le tue sembianze, Assiotea. I colpi sempre più agitati nella mia pancia mi riportarono alla realtà. Di una cosa ero certa: non avrei più permesso che Paionio mi violentasse, a qualunque costo. Quando ero in vita potevo sempre rivolgermi a Mamma Antino e discutere liberamente con lei. Ora tutto era diverso. Sì, c'era Emone al mio fianco e la mia esistenza senza di lui sarebbe stata più buia del mondo degli inferi. Ma lui si lasciava trasportare dalla corrente del fiume. Non avrebbe mai trovato il coraggio nemmeno di pensare che un fiume potesse essere deviato dal suo corso, perché per lui un fiume era un dio. Una invece mi offriva qualche briciola di speranza per il genere umano. Trovato nella spazzatura, figlio di nessuno, venduto come schiavo a costo zero, da solo, a contatto solamente con Gea, stava crescendo in armonia con madre natura. Un giorno che mi aveva trovata a copiare, i suoi occhi vivaci si erano accesi di curiosità. Si inginocchiò al mio fianco, sentivo il suo cuore galoppare nel suo dialetto secco, fatto quasi interamente di consonanti e pochissime vocali. Mi pregò di raccontargli quello che stavo scrivendo. Gli scompigliai i capelli arruffati. «Unai, vuoi che ti insegni a leggere e scrivere?» Mi afferrò una mano tra le sue, alzò gli occhi emozionati. «Sì!» Sprizzava una gioia incontenibile dal volto. Gli occhi erano venati dal sangue della stanchezza quotidiana. Assiotea, sentimi allora. Se gli dèi mi fanno un dono, mi dicono: Unai, scegli. Puoi scegliere una madre? Assiotea, ti piace che faccia il tuo nome? Per favore, mi fai fare il tuo nome? Mi strattonava, mi implorava con gli occhi. E io con una commozione che lui non poteva comprendere perché nelle mie viscere si annidava un essere che non volevo. Poi assalita da un sogno folle. Nel mio ventre avrei voluto Unai. E questo pensiero mi sconvolgeva, mi faceva star male. Gli dèi ti hanno esaudito, Unai. Tu sei mio figlio da oggi e io darò la vita per te. Gli presi il visetto con le mie mani, mentre il mio povero cuore era straziato da un conflitto di cui non ero responsabile. Mi sentivo dilaniata dai miei sentimenti di rifiuto verso i calci che provenivano dalla mia pancia e dagli amorevoli strattoni di Unai. Ma bastò uno sguardo a Unai che lottava per restare sveglio pur di apprendere, pur di cercare di far luce sulla sua condizione di rifiutato dagli esseri umani che l'avevano gettato nella spazzatura, per riempire il mio cuore e la mia mente di tutte le certezze di cui avevo bisogno per andare avanti. Seguirono 2 mesi di lavoro incessante. Campagna, copiatura e insegnamento. Ci fu la vendemmia e una festa che non dimenticherò mai. Quando finimmo di raccogliere l'uva, la mettemmo in un grosso contenitore di legno che aveva un foro in basso. Emone aveva lavato i piedi a me e Unai. Io e il pastorello ci immergemmo nell'uva e cominciamo a pestare. Ed Emone suonava il flauto e noi danzavamo nell'uva e il mosto sgorgava dal foro zampillando in grossi catini di rame. Ogni tanto Unai raccoglieva il nettare con le mani a coppa e mi faceva bere. E anche lui beveva e saltellava e voleva che anch'io danzassi. Il mio ventre però non permetteva che eseguissi con scioltezza quelle piroette. Il mostro mi faceva girare la testa, ma furono momenti di liberazione, ore in cui dimenticai tutto, in cui raggiunsi le nuvole dell'Olimpo sulle note del dolce flauto di Emone e dei fumi del nettare. Il momento più bello della giornata era il crepuscolo, dopo cena, dopo che avevamo governato il bestiame fino a notte inoltrata, in attesa della prossima alba. Io, Emone e Onai ci gettavamo nella scrittura, nella lettura, nelle discussioni. Il mio stupore era quotidiano. Emone e Unai erano analfabeti, non avevano mai letto un libro, eppure la loro capacità di ragionare su qualsiasi argomento era incredibile. Io restavo meravigliata e gonfia di speranza. Sentivo che l'essere umano possedeva forze vitali, naturali, che avrebbero potuto portare la nostra specie verso un mondo meno ingiusto di quello in cui vivevamo noi. Era autunno inoltrato, la foresta stava cambiando colore, il rosso cedeva il posto al giallo, il mio ventre ormai era grosso, la gravidanza andava avanti, continuava a svolgere una vita senza grandi scossoni. Quel giorno era quasi il crepuscolo, Emone era andato a mungere le pecore e le capre, io ero alle prese con Unai, in soli 2 mesi avevi imparato a leggere e scrivere. Non voleva smettere mai, anche se portavi i segni di una dura giornata di lavoro sul volto e negli occhi. Cominciai a sentire delle fitte nel ventre, dolorosissime. Le avevo già avvertite durante la notte precedente e nella mattinata. Intuivo che qualcosa non andava, ma al dolore lancinante si era aggiunto un altro evento. Lui, l'essere che portavo dentro, non scalciava più. Un'altra fitta, un dolore acuto che mi fece piangere, cadere quasi dal banchetto su cui ero seduta. Un mio grido strozzato fece sollevare la testa a Unai. Mi afferrò. Mi aiutò a distendermi sul pagliericcio, corse alla porta, fischiò, avvertì Emone, tornò verso di me inginocchiandosi, prendendomi una mano fra le sue, la preoccupazione sul volto. Giunse Emone, anche lui si chinò, vuole sapere. Mi fa male, è quasi un giorno che non lo sento più scalciare. Emone poggiò delicatamente il capo sul mio ventre, con l'orecchio cercava di sentire, invitò Unai a fare altrettanto, ma le loro espressioni rivelavano ansia. Assiotea, qui ci vuole un medico, una levatrice. Mi metto subito in cammino per Fliunte. Ma Unai lo bloccò. No, troppo tempo, Emone. L'ho visto, è successo una pecora e una capra. Hanno partorito prima, molto prima. Ho aiutato io a farlo, un agnello e un capretto morti nella pancia col cordone. E tremava, stringendomi la mano con le sue. Il cordone, il budello attorno al collo, strozzati, morti strozzati. Fissai Emone, volevo sapere. Io non sono un medico, sono solo un vecchio. Ma questo fatto non l'ho mai sentito. Fatemi andare a Filiunte, domani sarò di ritorno con una levatrice. Mi tremavano le labbra. Unai urlò. Si può fare tardi, non si fa in tempo, ti dico. Assiotea, può morire, ti dico. Dobbiamo tirarlo fuori noi, noi, noi, ti dico. Trattenne le lacrime. Le fitte, acute e dolorose, ripresero. Unai, Unai mio, forse Madre Natura sta già provvedendo. Mammantino una volta mi disse che prima di partorire succedeva proprio così, le fitte, le doglie del parto. Forse è proprio quello che mi sta succedendo. Emone mi passò una mano sulla fronte. Ma questo succede alla fine dei 9 mesi. A te, mancano ancora 2. Io so che prima devo uscire l'acqua, una specie d'acqua. A te questo è successo? E continuava ad accarezzarmi la fronte. No, Emone, questo no. Ma forse succederà, forse questa notte. Unai tremava scuotendo la testa, si mordeva le labbra. Puoi morire, ti dico. Voi della città non sentite quando arriva la morte, ma noi a Collelupo sì, Assiotea, si deve fare una cosa, subito, per tirarti dalla pancia la creatura morta. E subito, se no, puoi morire anche tu. E scuoteva la zazzera, disperato. Emone non sapeva che fare, fissava sconcertato il pastorello. Può avere ragione lui, Assiotea. Facciamo qualcosa, allora. Lo spingiamo con le mani, dobbiamo provarci. Sì, Unai ha ragione. Te lo dobbiamo togliere dalla pancia. Unai abbandonò la mia mano e cavò dalla tasca il suo coltello con la punta arcuata. Tremava, piangeva. E se non funziona? Allora, piano piano, apriamo la pancia e lo tiriamo fuori noi. Forse succede, forse Assiotea si salva. La sua commozione mi aveva contagiata. Unai, però, il taglio. Lo facciamo fare a Emone, ti dispiace? Cercavo di sorridere. Tu sei troppo agitato. e gli passai una mano sulla capigliatura ribelle. Il pastorello annuì col capo mentre le fite del mio ventre riprendevano. Mi mordevo le labbra e Mone mise sotto di me un panno pulito, poi mi tirò la tunica fin sopra il ventre e con estrema delicatezza prese a premere, a spingere verso il basso. Tremava. Anch'io cercavo di aiutarlo spingendo con le mie mani, con tutti i muscoli del ventre. Emone ordinò a Unai di guardare se il bambino cominciava a uscire. Il pastorello accennò un timido diniego, ma subito si mise a collaborare, piazzandosi tra le mie gambe con il pianto che gli colava sulla bocca. Le fitte continuarono sempre più forti. Emone accese due lanterne a olio, afferrò un fiaschetto pieno di vino. Mi supplicò di bere più che potevo, avrei sentito un po' meno dolore. Seguì il suo consiglio, bevvi sino a sentirmi male. Poi Emone riprese con più vigore e anch'io davo tutta me stessa. Le fitte erano spaventose, uno strazio che non finiva mai. Sentivo la voce di Unai che gridava il mio nome, che mi incitava. Emone invocava la dea Era, io mi straziavo le labbra, la testa mi girava, Emone urlava. Unai aveva preso a gridare che stava uscendo. Eccolo! Ti do una mano io, Issatea. Spingi, spingi ancora, ancora, così. Ti aiuto io. Ecco, la testa è qua. Forza, Assiotea, tu vivrai, ti dico che vivrai. Ecco qua, ecco qua. Era un dolore straziante, continuo, orribile. Ma resistevo. Non riuscivo più a forzare, a spingere. Finché sentii Emone, che urlava Unai di tagliare il cordone ombelicale col suo coltello. Poi Emone mi pulì tra le gambe, versandoci acqua e vino. Unai venne a inginocchiarsi accanto a me. Cercò di pulirsi sulla sua tunica sudicia, le dita imbrattate di sangue. Mi prese le mani fra le sue, mi baciò la fronte. Un bambino. Morto, Assiotea. Aveva il budello tutto attorno al collo. E mi baciò gli occhi emozionato. Tu devi vivere, devi. Se no, chi insegna tutte quelle cose a me? Caddi in un sonno profondo, ma Unai non mollò mai la mia mano. Ripresi coscienza, i volti tesi di Emone e Unai si affacciarono nella nebbia. Dalla porta filtravano le ombre del crepuscolo. Anche gli occhi di Titano, accovacciato appena fuori della porta, parvero rasserenarsi alla vista dei miei tentativi di sollevarmi sulla schiena facendo leva su un braccio. Mi sentivo debole, svuotata. Mi portai le mani sul ventre ormai vuoto. Forse era morto perché aveva sentito che non lo amavo. Fu Emone a rompere il silenzio. Sei giovanissima, Siotea. Sei una ragazza sana. Potrei averne ancora tanti di figli. Cercava di infondermi un po' di fiducia. Non credo, amico mio, non credo proprio. E scuotevo il capo, implorando comprensione a madre natura. Approfittando che c'era la luna piena, Emone partì con l'asinello per recarsi a Fliunte e avvisare Paionio. Unai s'accovacciò al mio fianco. I suoi occhi mi fissavano vigili. Nel cuore provavo una pena struggente. Eppure capivo che quello era il momento più adatto. Mi mancherai molto, moltissimo. E strinsi le sue mani con forza. Devi tornare là, a casa, è vero? Voce tremula. Ma devi venire anche qua. C'è bisogno di controllare la vigna, la campagna, gli animali. Cercava di sorridere con quegli occhi mansueti. Sicuramente le cose cambieranno perché Paionio vorrà altri figli da me. Mi rifugiavo con lo sguardo sui tizzoni che andavano perdendo il rosso ardente. Paionio non si fida più a lasciarti qua in campagna. Cercava di attrarre la mia attenzione. Non sapevo come dirglielo. Era un bambino ancora. Non è questo, Nai. Il fatto è che io non voglio altri figli. Io non avrò altri figli, da nessuno, soprattutto da Paionio. E stringevo le sue mani con forza. I suoi occhi mi dicevano che cominciava a capire. Lui ti obbliga. Lui può fare ogni cosa. Tu sei matta, Siotea, matta. Scuoteva la testa infelice. Io sono più forte di lui, mio Unai. E baciavo le sue mani. Ricordi che diceva la prima frase che ti insegnai a scrivere? Ritirò le sue mani dalle mie, guardandomi con occhi che volevano essere feroci e che invece erano pieni di una dolcezza disperata. In certe circostanze e per certe persone è meglio morire che continuare a vivere. E nascondeva le mani sul suo ventre, resistendo alle mie che lo cercavano. Mi accontento. Vederti una volta al mese, una ogni due, ogni 6 mesi, una volta all'anno. Sfuggì le mie mani. Si tirò indietro d'un passo, lontano dalla mia portata. L'unica preghiera che ho fatto agli dèi, l'unica, una madre, e mi pareva che mi avevano sentito, ci avevo creduto. E sollevava gli occhi umidi in alto e scrollava il capo. Gli dèi, ma quali dèi? Poi si lasciò andare, diventando tenero. Ma che vuoi combinare, Assiotea? Lo posso sapere? Te lo dico se fai pace con me. Probabilmente la mia commozione doveva essere ben visibile, il mio aspetto dovette fargli pena. Si gettò con il volto sul mio ventre. Non volevo che lo vedessi, farfugliava. Io ero forte, ero un pastore forte. Adesso non più e non va bene per niente. Raddrizzai la schiena. Io non giacerò più, compa Ionio. Non l'ho scelto né voluto. Sono stata venduta da mio padre assieme a 12.000 dracme al pezzo di terra qui vicino, quello di Caccialepre. Sono stata violentata parecchie volte, forse come il montone fa con le pecore, o il caprone con le capre. Le capre e le pecore non sanno parlare, non sanno dire di no. Io lo so dire, Onai, e lo dirò domani mattina. Gli passai una mano sulla fronte. Non credo che lo farà. Per lui ho un valore in dracme e non lo butterà via per un momento di collera. Penso che mi ripudierà e mi venderà come schiava al miglior offerente. E gli detti un bacio sulla fronte sporca di terra. Ma se anche non finisse così e mi mandassero alla gogna, non fa niente. Lui non mi farà aprire mai più le gambe. Aver pronunciato ad alta voce quello che il giorno dopo avrei fatto, mi dette una pace che mi si doveva leggere in faccia. Si liberò dalle mie mani, si alzò, frugò dietro gli orci e tornò accanto a me. Ecco, Assiotea, è tuo. L'ho fatto io col coltello mio, col coltello con cui ho tagliato il maledetto budello. Ma il suo viso non aveva più ombre o vergogna, mentre mi offriva il flauto di legno scuro e mi invitava a provarlo. Mi disse che era di olivo, il legno robustissimo, non si sarebbe mai rovinato. Provai a soffiare, a zufolare, dai piccoli fori si libravano suoni delicatissimi. Feci per ringraziarlo emozionata, ma lui mi bloccò. Qua non è tempo per la musica. Presto fai parte anche tu del nostro esercito. Gli schiavi non possono tenere armi. Il coltello che io ho lo tengo sempre nascosto quando viene Paionio o Panopeo. Ma nessuno dice niente a uno schiavo se porta legato al collo o alla cintura uno o due flauti. Guarda! In un attimo, con la velocità di un fulmine, fece ruotare la parte superiore dello strumento e appoggiò la punta acuminata alla mia gola. Un poco di forza e ammazzi una persona. Guarda bene. Questa volta ripete l'operazione con lentezza. Mi fece provare e riprovare, finché non imparai. Ci infilò una cordicella, fece dei nodi, poi me la passò sul collo. Grazie, Unai. Se ci dovesse essere bisogno, lo userò, anche se sono certa di essere capace di uccidere qualcuno. Sfioravo il flauto con ammirazione per il lavoro di incredibile bravura. Io proverò a usare un'altra arma. Pericolosa quanto questo flauto. Raccolsi un calamo appoggiato su una pietra accanto al pagliericcio, se mi sarà concesso. Trascorremo quasi tutta la notte raccontandoci i nostri progetti, le nostre speranze. Poi caddi in un dormiveglio agitato, ancora debole fisicamente, ma decisa a dare una svolta al mio destino. Il giorno dopo, Unai non portò il gregge sulla montagna per non allontanarsi. Emone e Paionio giunsero a giorno ormai inoltrato. Ero riuscita a mettermi in piedi, ma le gambe ancora non mi reggevano. Apparve Unai assieme a Titano. Gli passavo una mano sulla testa. Lo splendido animale era come se fosse in attesa. Emone, Unai e Titano rimasero fuori mentre io e Paionio parlavavamo. Non credeva alle sue orecchie. Mi consigliò di attendere qualche giorno. Forse quello che era successo mi aveva sconvolta. Tutto passa, diceva. Tutto s'aggiusta. E giovane come sei, chissà quanti figli ancora puoi avere. Paionio, non vuoi capire? Anche se questo mi costerà la libertà o la vita, io da te non avrò mai più figli. La mia voce era ferma, la mia mente lucida, la mia determinazione incrollabile. Finalmente capì. I suoi occhi socchiusi mi fissarono a lungo, incupiti dalla rabbia. Poi mi ordinò di seguirlo a piedi. L'asino doveva restare lì a Colle Lupo. Emone provò a offrirsi di accompagnarmi, ma lui glielo proibì. Unai sembrava disperato. Non cessò un solo momento di tenere a freno Titano, accarezzandogli nervosamente il capo. Lungo il tortuoso sentiero di montagna non riuscivo a tenere il passo del cavallo e allora Paionio mi gridò di camminare avanti a lui in modo da potermi controllare. Non mi sentivo bene, ero debolissima, le gambe fiacche. Qualche volta caddi, tremavo tutta, ma feci sforzi sovrumani per non cedere allo sconforto, per non rallentare l'andatura che mi imponeva lui, per non sentire le sue bestemmie e le sue imprecazioni. A Fliunte non si arrivava mai. Mai. Il giorno dopo, Paionio chiamò un magistrato a svolgere l'intero rito e mi ripudiò. Pretese che testimoniassi e che dicessi la verità. Al magistrato dissi che non avrei mai più giaciuto con Paionio. Volle allora sapere se lui mi aveva picchiata o se si era accoppiato con me ubriaco o se avevo subito percosse o maltrattamenti. Osservando la mia indecisione, mi disse che se lo ritenevo necessario potevo consegnare una lettera all'Arconte specificando i motivi del perché io non volevo più giacere con mio marito. Ma le ragioni, puntualizzò, dovevano essere gravi, gravissime. Tremavo, non sapevo che fare, ma colsi un'occhiata ilare di complicità fra il magistrato e mio marito. Dissi che non intendevo avvalermi del diritto di scrivere all'Arconte. A quel punto, Paionio chiese di essere esentato dal dover restituire a mio padre la dote da lui ricevuta, in quanto il suo ripudio era una conseguenza del mio rifiuto di dargli dei figli, unico motivo che lo aveva spinto a prendermi in sposa. Il magistrato accolse la sua richiesta. 15 giorni dopo rientrò mio padre. Messo al corrente degli avvenimenti dal magistrato, mascherando a fatica la rabbia, mi vendette come schiava per 700 dracme a un commerciante di schiavi che aveva già radunato altre 20 donne destinate al porto del Pireo. Non mi fu permesso di portare con me nulla, nemmeno un foglio di papiro, un calamo o una pastiglia d'inchiostro. L'unico oggetto che mi lasciarono addosso fu il flauto di Unai.